adesso. L'ho fatta la radio. Non c'è sulla scrivania. Cosa? Ho detto, non ce l'hai sulla scrivania. Cosa? Il telefono? No, la radio. Penso, c'è troppo alta. Ehi, che frutto di guarda. No, no, perché l'ho messa a queste 4.30, l'ho messa a 2.30, quello che ho ritirato stamattina. Mi sento troppo amplificato forse, non so. Ma già va bene, io sto usando le MC43 A2-2 è il macchinè. Va bene, ottimo per la truppa, cappa di roggio. Cappa, si sente che è il palmarino. Cappa, col mixer naturalmente. No, se non me lo dicevi non si sente perché spinge talmente tanto, lo sembra un 60. Ah, vai, figlia. Sesso, mai. Davvero. Ed è... Allora, il primo volume è a 7. Aspetta, questo è collegato nel secondo canale. Il primo volume è a metà. Vedi? Se te l'aumento. È a metà. Il secondo volume è a metà. E il terzo volume è a un terzo. Non puoi lasciare così come te, Giulio. Ti mando un audio, è spettacolare. Bella, forte, chiara, limpida. Sembra un 60, te lo sto dicendo. Che allucinante. Sì. K, e ci avessero fatto quella roba là. Aspetta. Ma quel messaggio che ti ho mandato, davanti a quel microfono l'hai visto? Perché no, c'ho il baffo che non è blu. Allora, aspetta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ehi, 4, 5, 6. Lasciate tutto il commento. Ho detto, ma quel messaggio che ti ho mandato su WhatsApp, inerente a quel microfono, l'hai visto o non l'hai visto? Adesso lo guardo. Guarda, c'è un WhatsApp, non ho letto, ascoltalo. Ti ho mandato il video di come stavo usando il palmarino, se no avere un obbediente non gridi. K, guardati il video e guardati l'audio. Adesso vado a vedere se è arrivato, ma niente c'è nulla, vediamo se è arrivato. Vabbè, non c'è più scendendo. Non c'è bene, Brian, forse è troppo alto. Adesso vado a vedere io, aspetto un attimo. K. Così è, andava bene, andava bene. Cappa di roggio, va bene che va bene. Chi è, chi è? Avanti, c'è posto, chi è? Lasciamo vedere così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, adesso è staccato dal mixer, diretto alla radio, K. Ok, staccato. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, la cicuta. Cazzo, un abisso c'è. Aspetta che lo riattacco al mixer. Attacca, attacca. Attacca bene. Andrà bene. Niente. Sta fischiando, vuol dire che sta amplificando di più, giustamente. Perché mi sta amplificando, fischiando nell'altra radio. K, Rogero. No, andiamo bene, possiamo fare la truppa. Mi sembra che ci abbiamo rientro da qualche parte, non capito. Guarda i macchi se vanno bene gli altri medic là, se c'è da... lo lascio così. Perché se questi microfoni vanno un po' sul come si dice, sull'effetto metallico. No, no, va bene, va bene. Ottimo per la truppa. K già. E poi, dice, no, no, aspetta, rimetto come era prima. K. Sì, aspetta. E me? Prima cosa. Si sente la ventola di quell'altro apparecchio? No, non sente niente. Andiamo bene così. Diciamo con... eccoci qua, 5 watt. Ecco, adesso siamo così. gran ding ding ding do, un gran ding ding ding. Oh oh oh, aspetta che metto il ruggito, se no. Ok. Lascia stare tutti i cittadini, non tocca nulla, se va bene. Ascolta, io sono a casa mia e tocco quello che voglio, hai capito? Ma vabbè. Ah, che non devo rompere il rosmi. Hai capito, Dio. E va bene allora, va. Andà bene, andà bene. No, cazzo, io ce l'avevo sempre così. Ah, oh, uno, due, ok. Un buon fatto, tu vuoi per 30 anni. Ho una radio che sta allucinante. Ah, vero. Ma te lo compri? A me lo vedi? Perché no? Tanto non ci dovrà essere 4. Mi sto tirando questo cavo che c'ho le prolunghe. Non da sopra, dal piano di sopra al piano di sopra, c'è questo lungo del microfono da 2 metri, lo sto piegando perché vabbè, troppo alto, cazzo, ci vado da sopra, oh oh oh, lasciamo così. Anzi, mi sono dimenticato di dirlo, io avevo contattato uno quando ho messo il 140 in vendita, se era ancora disponibile, boh, se te lo vuoi vendere fammi sapere che glielo dico. Sì, allora visto che non no, su tutti vediamo, facciamo, diciamo, metti dillo che è disponibile, è disponibilissimo il mio 140, cosa se ho preso gli altri due, ho preso 757, un altro 430, ho già la volta colazione, 140 lo faccio fuori. Non perché mi servono soldi, ma perché non ho spazio, se no rimarrebbe da parte e come sempre, capito? Invece se tolgo 140 a mezzo alle balle, ci fico il 757 e lo spazio è ridotto, capito? Aspetta, se gli sto mandando il messaggio allora, perché l'avevo visto in vendita, me l'ho dimenticato di toglierlo, capito? Quindi mi ha contattato questo oggi, va bene. Aspetta che gli mando il messaggio, così organizziamo il tutto. Sì, disponibilissimo, con tanto di cappello per quella radio, ma veramente tanto di cappello. Caspita, io te l'ho detto, non ho potuto provarla nelle bande a cassette, giustamente, però è un lavoro che hai fatto tu quando te l'ho dato, e così che hai constatato che funzionava bene, così che passiamo a posto. Allora, no, grande, è perfetto, centratissimo, l'ho provato col digitale, perfetto, non ha niente da fare con la radio, esteticamente, meccanicamente, tecnicamente, è perfetta con la radio, si può dare tranquillamente senza fare brutte figure. Perché è un radioamatore, appunto, va bene, adesso gli ho mandato un messaggio, ok. K, devo gestirlo, K del Rosmetro, già andavo a... E non riesco neanche a completare la linea, porca puttana. Ho ridotto le 10.50 e le CP430. Perché mi si ritorna due radio sopra e non ci sta la linea completa adesso. Mi si gira un po' le balle, avanti con questo gatto di gara che siamo a mezzo alle balle. Ce lo butto dentro l'armadio e mi completo la linea del 430, se non c'ho posto. Bene, se no devi va a torre a scaffali, mica a scaffali, ma non vale più la pena. No, non mi interessa i baracchini, lui non mi interessa un proprio, me lo tolgo e lo metto dentro l'armadio. Se non si freseggia, rimane freseggiato, ma stessa lì devo completare la linea sopra, al fianco al 920 devo completare la linea Kenwood, perché non ci sta, ho avuto togliere la metà e le CP430 e non va bene. Certo c'ho la linea completa, ma io posso avere un pezzo a battere un pezzo all'altro. Quindi ne tolgo il Galaxy e ci metto esattamente il sito. Sì, un po' più subito buru me va, si pongo la linea completa del 430 sopra. Bravo, bravo, è un comodino se lo mai entra armadio, bravo. Sì, tanto non lo uso mai, lo uso ogni tanto, così giusto per farlo sentire, ma a me non me la fotti nulla, capito? Chi lo vuole lo paga come dico io, se no non mi serve nulla del culo durante l'armadio insieme agli altri e rimane lì. Lo metto in cielo, fa quella, come si chiama, quella carta bulli, com'è? La pluriball. Sì, quella mille bolle. Lo volgo a quella del culo durante l'armadio. Se no, buon uso, te l'ho detto, lo volgo. sto a letto. Vabbè. Oh, ma ti piace quella scatolina che mi sono fatto? Mi sembra che ti ho mandato la foto. Per i collegamenti volanti. Sì, molto bella. Molto bella, va benissimo alla grande. Sì, è comoda così, perché cosa faccio? Stacco un microfono e ne metto un altro, capito? Kenwood sempre naturalmente. E non devo uscire a far nulla. Il cavo principale rimane attaccato alla radio con i due jack entrata e uscita al mix, e qua io ci collego tutti i microfoni in un battesecondo. Vedi, così va bene. Ottimo per la truppa, alla grande. Però aspetta un attimo, Clam, che attacco un attimo il 60, perché ieri stavo facendo un tri-tri-tri-tri-tri, capito? Non ho capito se dalla scatolina o dal mixer. Aspetta un secondo. E io quel 60 quando lo attacchi alla scatolina o al mixer si incasina, mentre invece se è normale, libero, è perfetto. Tu prova. Allora. Vabbè? No, perfetto così. Non sta facendo inneschi niente? No, perfetto. Sento appena la ventolina, ma è perfetto. Questo. Che non devo toccare neanche i volumi. Esatto, sì, ecco. Ah, perché ero in AVG. Sì, adesso sono 60. Non so se si sente lo stacco, però. Ah, grande, sente lo stacco. E non cambia niente qua, da quando da con la scatolina, cioè dal mixer a sempre. No, ho fatto differenza, io sei cambiato. No, aspetta che ho cambiato, io ho fatto l'attacco di testa. Così c'è un bel di alternata lui. No, forse come lo salvo, perché stavo iniziando a staccare lo spinotto, vedi un po'. No, così va bene. Aspetta, lo attacco direttamente alla radio. Prova. Adesso ho attaccato direttamente alla radio. Vedi un po', si è cambiato. Cioè, cambia, deve cambiare, perché il mixer deve fare il suo lavoro. Si è attaccato alla radio, è più basso. Più basso è attaccato alla radio. E il macchinario è sempre a 2,2, è processore inserito, è solo gas è diretto alla radio. Va bene, così. Però quando lo attacchi al mixer c'è questo cacchio di come si chiama, di rumore di alternata, capito? Ma stava andando bene, mi ha detto, solo quando ho messo la mano sullo spinotto per svitarlo, che mi ha detto che stava facendo alternata. No, vabbè. Allora, adesso sono di nuovo col mixer, capito? Vedi un po', sto facendo alternata, non sto toccando niente. No, non sto facendo niente, è leggermente più forte, ma appena proprio. Vero? E se metto un attacco in più di volume, ha cambiato o è sempre uguale? No, ha cambiato, è più forte e anche più bella, così la puoi lasciare. Se te lo sono dicendo. Allora, il primo volume è a metà e così a 6. Lo lascio così allora, se mi stai dicendo che sta pumpando e si capisce il tappo, lo faccio così, va bene anche questo. Solo guarda, se metto la mano sul coso dove è stata alternata, adesso lo metto il... Io se lo tocchi fa alternata, ma ho visto che ce l'avevo 4.30, è fantastica la modulazione, va bene. Metto gli altri per comodità, di spazio, non per altro, capito? Perché se devo fare qualcosa sul mobile non c'ho spazio, perché devo spostare il mixer adesso, non so, devo cercare un buco per il mixer. Hai per fare qualche piano sotto, qualche cosa scorrevole, un carrellino sotto la base della scrivania? Perché deve essere a portata di mano, capito? Ah, va giù pure che caffè cose, mi sei bene, caffè radio, allora, vediamo un po'. Lo volevo mettere in verticale, capito? Lo volevo mettere in verticale. Appunto, le fai una basettina e te lo affianchi alla... dove c'è la base della scrivania, cosa le fa? Quando ti serve tiri il carrellino e lo usi, quando non ti serve lo lasci dentro. Sì. Quando c'è la tastiera di computer, no? che c'è il cavellino a cartiera, vai ci dentro, ma non ti serve, la tiri fuori e scrivi la stessa cosa che fa un piscio, non puoi vedere mezzo le balle, no? Sì, è il mobile da computer, solo che c'è il 60, c'è il mixer, capito? Non è che appunto il ripiano è grande quanto una tastiera e mezzo, e non ti credo sia così lungo. Si inizia a mettere 60 e il mixer e devi fare qualche lavoro di saldatura, mi devo spostare in un'altra postazione ogni volta per saldare, fare. Non so, però secondo me si può fare. Ti metti il piano così e lo fai. E va bene. Aspetta, mi stanno mandando anche rivenditori di pellet, 5,39 euro. Aspetta. Certo, avvisami subito, io hai preso 5,39 euro a sacco. Vabbè, ma qua in Sardegna? No. Ehi, grazie. Voglio pigliare la nave, ma la pigliavo belle. Ce lo facciamo mandare. Sai che non ho girato un sacco. Una per la tua, una per la quella, una per l'altro. Mi sa fare la mano di cavallo, perché anche lui era la caccia. No, poi un altro sta cercando qualcuno che riguarda. No, mi sto mandando il messaggio. Poi c'è un altro che sta cercando qualcuno che serve legna in un terreno, va e se la taglia e se la prende. Addirittura, se avevo già la stufa legna, già era andato subito, ma non è la stufa legna io. Non la metto perché fa un sacco di puzza. Massimiliano Villo, che voleva cambiare lui, voleva prendere la stufa a legna anziché con la pelle. Se le interessa, già c'è la motosega lui, ma se la fa la legna. Aspetta, gli ho chiesto dove questo terreno. Io quel terreno, ma con lo zio, con gli amici suoi, ma è tutto il gamonetto, il suo legna, ma aveva un messaggio, prima informati bene, se le interessa, c'è l'inverno assicurato, io non ho sto far legna. Camino lo volevo fare, io me lo voglio, non ho voluto. Camino è bello, si è costruito bene. Molto bello, è importante che tiri e che ci sia il parascintille davanti, perché in un salone magari ci sono bambini o animali, comunque, o divani soprattutto, è sempre pericoloso. A me un parente lontano si è incendiato un camionetto, non qua in Sardegna, ma in continente. Di mamma, e ancora va tutti i disegni, manco male è andata bene, però c'ha un braccio e una parte di un fianco tutto bruciato. Però io ero la gnagna, no, quella roba là non è qua, aspetti, mando un messaggio. Aia, va bene, ma cuccomane non c'è, attento, ma per un cuccomane, sempre agguato, sì, cazzo, non parli, non parli. Ci sono tornato col palmarino. Aspetta un attimino. Allora, questo è così. Aspetta un attimino, adesso metto quest'altro. Ok, questo è quello da studio. Quando dammi una buona retromarcia, di no, vabbè, questo è l'altra radio. Guarda a vedere, ho pernata, c'è o bricchi, no, non c'è niente. Questo è quello da studio, vabbè, sto usando sempre la 43, però ho collegato, c'è quello da studio anche. Va bene. Aspetta qua, dimmi se si sente, guarda, ti stacco un attimino questo qua, guarda se si sente, anzi ti chiudo il volume. Però se ti chiudo il volume non esco neanche con l'altro, aspetta. Infatti Cecchini non te ne provo più nulla. Guarda, allora adesso sono col 43, vedi? Col 43, sempre attaccato alla cosa. Allora, adesso è attaccato quello da studio, ok? Adesso ti faccio un passaggio attaccando quello da studio. Ecco, adesso è attaccato quello da studio. Ha cambiato qualcosa? Sì, dal giorno alla notte ha cambiato qualcosa, c'è l'obbligo. Perché in pratica sono tutti e due collegati. Solo che uno fa comodo per il PTT, però ieri, aspetta, con l'interruttorino che mi fa più comodo ancora, mi hanno detto che stavo facendo, forse l'interruttorino, aspetta, non ho capito. Aia. Prova, dopo mi mettono in obbligarci. Mi completo la linea 430 sopra a fianco al 920, così è tutto ok. Allora, adesso sto usando il coso, il tastierino, capito? Che è un tastierino di 2 cm per 1 cm e mezzo. Non so neanche da dove l'avevo ricavato. Sta difettando? No, sente un bel rumore di vento, però quando parli le passi sopra, capito? Non c'è problema. Beh, il microfono è quello da studio, adesso l'ho spento l'altra radio, non dovrebbe sentirsi niente, perché non si accende neanche quella della radio, tra l'altro la vento, diciamo cala. Vabbè, forse perché stanno comunque calando le temperature esterne. Niente, questo è quello da studio. Ieri me l'ha detto Natalino che stava facendo difetto. Vabbè, no, non ci sono problemi. Ultimo per la truppa, carta gatta. Metto il microfono da 2 soldi, eh? Ma è per comodo perché non devi stare, non ce l'hai davanti, la roba. Anzi, mi avevo messo una spugna, però quello che mi detto, l'ha tolto, mi avevi detto che era meglio senza. Questo senza spugna. No, vabbè, figlio un bacio senza spugna. Ma la grande, la grande. Ottimo. Gappa. Ogni tanto sto controllando il telefono per vedere se quella persona che mi ha detto mi ha contattato. No, aspetta che mi ascolto questo messaggio. Gappa, eia. Stando in Bruno, ma vedendo, deve essere giù al bar. Vedi un ben preficcato quello a studio. Allora basso, se dà fastidio, aspetta, se ti metto il primo volume a metà, guarda se ha migliorato, se no lo abbasso ancora. Oppure quel fruscio famoso, ma quello l'avevamo regolato. Adesso ho abbassato anche quello, vedi un po' se va bene. Così una canonata, lascialo così, non ho a toccare questo da studio, sono troppo burottuccio, così va bene. Perché era capitato che avevo collegato un microfono nel secondo canale, invece di regolare i parametri del secondo canale ho toccato quelli del primo canale, capito? Infatti quello non lo stavo toccando, stavo solo accendendo l'alimentazione, appunto, quando lo devo usare, perché quello lì va alimentato, se no se lo uso senza alimentazione devo aumentare l'amplificazione, capito? Anzi, 40 volt ci sono lì cosi, metto il mixer per alimentare questi microfoni. Oh, addirittura. No, lascialo così che va bene, sennò è troppo brutto, troppo alto, perché fa un sacco di bordello. Sì, all'interno di questi microfoni c'è tutta una componentistica, capito? Circuito con tutti i componenti. E vanno a 40 volt appunto, mentre gli altri a jack no, capito? Quelli no, quelli li regoli solo col mixer. E fate una cannonata anche per quello, perché ci puoi mettere un microfono dinamico. Come appunto ci avevamo messo 50 e altri e quindi fa spingere come che fossero amplificati. Te la mando la foto del Saturn Echo, metti in vendita anche quello, non c'è proprio come dei coglioni. Certamente, e quelli li cercano, vedi, lo stesso. Manda. Adesso che è acceso, perché poi mi viene male. Dunque, la sfumatura che vedi è la luce, ma se lo prende se vede che non è grafico. Lui, mi allontano un attimo, è il tempo di farmi la barba, ok? Eccomi qua, bim bum bam, sei qua. Ti ho chiamato quello fa, qualcuno mai, perché non sei entrato. Come dice? Ti ho chiamato quello fa, perché non sei entrato. Non c'ero, sto rientrando adesso. Ti ho sentito quando eri in cantina. Ah, cappa cappa. Io, non mi ero con Luca. E poi sono andato a farmi la barba. Non so se è qua Luca Blu. Lu ci sei? Io. E si conferma confermando. Va bene, va bene. Proporta la radio è Natalia, va bene così. Ah, va bene così. Io, le 4.30 no, non so mai se va a 2, 1.30, a 2.30, vabbè, dovrebbe andare così comunque a 2, quanto a 2 il bicchierino, cioè va bene. Hai visto lui il microfono originale? Sì, ho messo bene di comodino, con due cassetti. Infatti, ho detto bene, era dentro il cassetto, mai usato. Nell'annuncio ho messo, quindi di comodino. Tu, oggi troppo volte non ti intendo, cosa hai detto? Ah, scusa, ho staccato l'alimentazione. Ho detto, ho messo nell'annuncio, quindi di comodino. È un comodino quello che è la base dell'ingresso, del gatto comodino. Avevo portato il nome blu comodino, blu blu. Natali. Cuglia. Allora TV, io sono impegnato nel masticare una. E io sento invece, ma che viene, mani avanti. Non avevo visto l'orario, sono le 7:10, tu a quell'ora di mangiare, già va bene. Cava cava cava! No, dai, se mangiano la risetta mi ripeto a mezzanotte a mangiare. Non ho capito niente, stavo abbaiando col cane malefico. Mangia le sette, a mezzanotte mi ripeto a mangiare ora. Che non di là fare, a me mi veniva ma non posso mangiare, sai? Perché mangi troppo presto. Mangi troppo presto. Ma la notte nessuna fai. Ehi. Peggio, io non lo so, che diabete lo vai tu, non lo so, però. Oh, secondo me porto il cane fuori. Cara gara, via. Se fai l'insulina una notte è peggio così, un conto è prendere la pastiglia, un conto è fare l'insulina, facendo l'insulina ti viene fame da bui, non lo sai, troppo presto mangi, capito, è quello che non va bene, non mi do di sì, tu pure, noia, andiamo, gatta. Andiamo. E così è, niente a fare. Grazie Dio. Allora io ho fatto 30 km con questo telefono, cappa, te l'ho detto io. Devi fare, ma non lo puoi fare. Allora ti arrangi. No, lui ce lo facciamo quello, si lasciami liberare da queste cose che sono incasinato. Poi si ordina quella roba lì e si piazza. Che mi sono rotto le palle. Capito? Perché qua il cameretta non prende WhatsApp, il telefono prende, ma non prende WhatsApp, capito? Allora volevo tenere il salone. Ma con tutti i telefoni cosa fa? Cosa? Con tutti i telefoni cosa fa? Con tutti i telefoni. Con tutti, o solo col tuo? No, lo fa anche la Wind, lo fa anche la Wind. Capito? Però loro sono più avvantaggiati su WhatsApp, prende meno la linea. Invece su WhatsApp lavora, io su Iliad, su WhatsApp è molto più lento, prende, ma è più lento. Mentre il telefono mi prende in tutte le stanze. Ci capito. Sì, è schermata quella stanza lì. Sì, schermata nel gas, assurdo. Un metro e mezzo di carrello. È un po' isolata, era isolata molto molto bene, sono muri un bel grossi, capito? Era a bruttetti più c'è la tamponatura in mezzo termica. C'è la tamponatura frattini dopo il blocchetto. Sì, casotto, c'è casotto, si può risolvere, capito, con quel sistema lì. Sì, già lo risolviamo. Aspetta, vado a vedere chi è.